Intervista con Don Esteban Aranaz, missionario a Taiwan, zenith.org. In collaborazione con Aiuto alla Chiesa che Soffre, Maria Lozano ha intervistato per il programma Donde Dios Llora, Dove Dio Piange, Don Esteban Aranaz, conosciuto anche come Qiu Shenfu. Il sacerdote racconta la storia della sua vocazione missionaria, che lo ha portato da Tarazona, un comune nella comunità autonoma dell'Aragona, Spagna, in Cina e Taiwan. Riproduciamo qui di seguito l'intervista. Don Esteban, può raccontarci la sua vocazione? Tutti noi abbiamo una vocazione e se c'è un clima di rispetto e di libertà è possibile per ciascuno scoprirla. Nel mio caso, l'esperienza della fede in casa, l'ambiente della mia città ed anche la testimonianza della sorella di mia madre, che è religiosa, hanno avuto un ruolo molto importante, ma alla fine è sempre una questione tra te e Dio. Dopo aver preso la maturità, ho sentito e visto chiaramente che Dio mi stava chiamando ad essere sacerdote. Ma in un primo momento non riuscii a decidermi sulla missione. È stato dopo aver dedicato alcuni anni al lavoro pastorale in diocesi che Dio mi ha mostrato che potevo partire come missionario a Taiwan o in Cina. Perché Taiwan? Perché la Cina? La decisione di andare in Cina e poi a Taiwan l'ho maturata attraverso l'amicizia con una persona conosciuta a Saragozza, un ragazzo che da anni lavorava lì in una situazione difficile perché è arrivato in Spagna clandestinamente. Con lui nacque un'amicizia molto bella. Un anno lo invitai a casa per le feste natalizie. Questo mio amico era pagano, non era cristiano. Avevo pensato molte volte a come trasmettergli, come comunicargli il significato del Natale. La vigilia di Natale siamo andati in chiesa per preparare le cose per la messa di mezzanotte. Collocando l'immagine del bambino Gesù, il mio amico Yen, così si chiama, mi diceva sorpreso: "Oh, che bella immagine del bambino! Questo bambino Gesù dice tre cose." Chiesi: "Tre cose?" E mi rispose: "Sì, la prima cosa è che lui non è come noi, lui viene dal cielo. La seconda cosa è che è molto piccolo ed ha una mamma che gli vuole tanto bene. E la terza cosa è che tiene le braccia aperte perché vuole bene a tutto il mondo." Rimasi di stucco, pensando come fosse possibile che il mio amico, che non era credente, mi stesse spiegando in modo così semplice ma così profondo il mistero del Natale. E questa esperienza ha cambiato la sua vita. In quel momento pensai per la prima volta alla Cina. Ho pensato: "Gesù, quanti in Cina non ti conoscono?" In quel momento è iniziata l'inquietudine per capire se questa era la volontà di Dio. Come potevo lasciare la diocesi per fare altre cose? Si vede che quando le cose sono di Dio, proseguono. Ci ho meditato sopra molte volte, ho pregato e ho visto chiaramente che la chiamata alla missione era per la Cina. Dopo le parole di Giovanni Paolo II nel 2000, prendere il largo, mete apostoliche più audaci. Tutto questo ardeva dentro di me. Pensare alla Cina era qualcosa di baldanzoso, ma era una chiamata così forte che non mi lasciava. Ero sempre convinto che quello che il vescovo mi diceva fosse la volontà di Dio, ma non potevo far altro che esprimere con sincerità e semplicità quello che il mio cuore sentiva in quel momento. Andare a lavorare come missionario in Cina, dove sono stato molto felice per 6 anni. E com'è arrivato a Taiwan? La conoscenza che avevo di Taiwan veniva da una suora domenicana di clausura che si trovava in un monastero a Taiwan. Grazie a lei ho scoperto per la prima volta queste terre e tramite questa persona abbiamo mantenuto contatti con i bambini della catechesi e della scuola del villaggio. Pensavo alla Cina, ma la difficoltà di vivere e di lavorare in quel paese mi hanno fatto scegliere Taiwan e penso che molti missionari hanno fatto la stessa esperienza. D'altra parte, non me ne andavo solo perché facevo parte della società sacerdotale della Santa Croce, dell'Opus Dei. E in ogni momento ho potuto contare su di loro anche a Taiwan. Loro stanno a Taipei. Questo appoggio lo avevo già in Spagna, attraverso la direzione spirituale. L'ho trovato anche lì e grazie a questo la missione poteva andare avanti. Il nome è molto importante nei paesi asiatici. Si chiama ancora Don Esteban? In Cina, quando uno straniero arriva, una delle prime cose che deve fare è prendere un nome cinese, che sarà quello che servirà nella vita di tutti i giorni. In questo caso è stato il mio insegnante cinese a darmi un nome che tradotto significa padre autunno, Qiu Shenfu. Shenfu è il titolo che si dà al sacerdote in Cina e il cognome Qiu. E tutti così mi conoscono a Taiwan. È in qualche modo un segno di distacco, perché vai in missione e devi perdere persino il nome. Come ha vissuto il cambiamento? Questo cambiamento è stato opera della grazia di Dio. E d'altra parte, per una persona inquieta come me, non sarebbe stato possibile in altro modo. Ho dedicato solo 2 anni allo studio della lingua e ovviamente questo ha significato un blocco di qualsiasi attività. Se non si parla il mandarino, non si è qualificati per servire, per lavorare a Taiwan. Molte persone conoscono l'inglese, ma l'inglese non è parlato nella vita quotidiana. Questo ti aiuta a distaccarti molto, è una grande esperienza di umiltà. Penso che aiuti a ritornare alle cose essenziali ed importanti nella tua vita. In questi 2 anni ho frequentato le lezioni ogni giorno, facendo il mio lavoro il meglio possibile, celebrare la messa, pregare, stare con i miei amici, rilassarmi e prepararmi con grande entusiasmo ad un lavoro che mi sta aspettando quando la lingua me lo permetterà.